95. E capo, non ci sono problemi tra comunque, non ti preoccupare. È tutto risolto la questione. Ho parlato con quella persona là e mi ha detto a non preoccuparmi che finiti quei mesi ce ne saranno altri 3 mesi, hai capito? Dunque mi ha dato un coso di sollievo, hai capito, Claudio? Dito Giuseppe, non bisogna mai disperarsi, mi avrebbe fiducia, come ti ho detto ieri, e un pochettino di pazienza, poi tutto il resto viene tranquillamente senza nessun problema. Sono contento, non contento, contentissimo di questa tua notizia, molto bene. C'è anche Antonio, o Romeo, Antonio Brode mi pare sia andato a casa, o vediamo un po' se c'è di nuovo. Avanti Antonio Romeo 1. Ok, grazie Leonci. Claudio, non ti devi scusare. Comunque Coso, su Grode è andato a pranzo, ha fatto QRT e carica batteria. Ti stavo dicendo poco fa se c'avevi il numero di telefono di Billy. Vittore? No, io Vittore ce l'ho su Facebook. Potrei contattarlo e se ti serve qualcosa lì è molto più facile, perché mi ha mandato un saluto anche l'altro giorno, l'ho risposto, quindi mi viene più facile contattarlo e se vuoi il numero di telefono me lo faccio dare. No, non c'è bisogno, già siccome io giro a Sassari che dovevano fermare la cassa integrazione per l'azienda per cui lavora lui. Siccome avevo chiesto una cosettina, un amico mi ha detto no, non c'è Tore a Sassari, Ucci, e casomai già chiamo un'altra persona io dopo al telefonino e poi lo dice a lui, se la fa dare da lui o la procura la persona, poi tanto già devo scendere io, mi devono dare dell'altra roba. Va bene, come vuoi. Se ci serve qualcosa mi dici, ho contatto, no, non ci stanno problemi, ok? Sì. Casomai per stasera cosa hai deciso? La fai? Ti fai vedere da Laura dopo le 5:30? Sì, appena termino questo signore, vengo lì da Laura. Vieni, tanto se c'è l'appuntamento alle 5. A mezza, 6:20, 1:15, troverai da loro, così ci facciamo una chiacchieratina. A che non c'hai da dare via? No, infatti se un 800 di mia moglie che l'abbiamo fermata perché lei sta usando la Peugeot che avevo io prima, sono troppe macchine, iniziano a salire i costi e non è che è un periodo bello, e quindi una la eliminiamo. Ne teniamo 2 solo, perché una ce l'aveva mia moglie, una ce l'avevo io, una ce l'ha mia figlia, io invece sono anche nel servizio, quindi adesso questa la diamo. È una macchinetta buona, c'ha 50.000 km del 2004, sempre comprata nuova, unico proprietario, quindi. E c'è un signore di poco Torres che mi ha contattato e deve venire a vederla per la moglie, capito? E quindi insomma, vediamo un pochino, dai. Insomma, chi ce l'aveva? Un Porto Torres e la macchina ritorna a Porto Torres. Come gira, io non ne sapevo come ha detto lui, perché ho detto sai dove è il 94, no, io sono di Porto Torres, aia, anche io, quindi. Allora stavate parlando di Baesino. Ah, non lo so se lui è il Baesino, io sono su 5 di Cuglio, perché sono nato via Cavour, quindi fronte lungomare. Lui non lo so dove ha detto, adesso me lo dirà stasera, se è Baesino o se è 5 di Cuglio. Ah, vai che quello è Baesino, non ti preoccupare, c'è 5 di Cuglio. Mentre che dava Selletta, chi? I sorsesi portavano a vendere, come cavolo, i fichi secchi, ribuccio d'oresi da zia Nasallina, le piante a Cabaggiosso. Mi hanno raccontato la barzelletta a volta. No, ci sono effettivamente due categorie a volta, esatto, quelli che sono nati nella zona di San Gavino. così è. Vabbè, allora Giovanni, Giovanni, quell'ex collega mio, pure il Baenzino, perché lui è nato in quella zona lì. Sezioni di Porto Regge, dei Benzini e dei 5 di Cuglio. Io faccio parte dei 5 di Cuglio. Avanti, Giuseppe. E già, diciamo che a Porto Regge c'era anche un'altra persona che conoscevo bene, tipo, già mi è capito chi è, Claudio, tutti quando c'era la stazione del Radio CP, che lo prendevamo sempre in giro noi. Lurricio rimane talmente tra. Io mi ricordo Giuseppe, bei tempi che furono. Adesso bisogna raccontare altre cose, siamo diventati vecchietti. C'ha ragione, ormai abbiamo qualche anno in più confronto agli altri, abbiamo un po' di anni in più, che di frequenza la gente che entra da Lecce agli anni inoltri deve mangiare ancora pane. Sì, vabbè, l'importante è che si va avanti, Giuseppe, e poi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma sempre è sempre bello ricordare i vecchi tempi, il passato. E così, va bene, avanti a te. Romeo. Sì, dimmi a te. Ehi, ma hai chiamato per caso? Perché mi ha squillato il telefono a casa e me l'ha portato mia figlia e mi sono tolto le cuffie. A proposito, e poi quell'altro CB che abitava per andare al cimitero, come si chiamava quello? Volava su in stabilimento, adesso mi sembra che piazza pompe di calore. Che lavorava al cimitero, quello mi pare sia. Ah no, che lavorava lì, cioè che abitava vicino al cimitero. Albino, stai dicendo tu? Albino era, quello magrolino. Aspetta un attimino, di cosa? Di baracchino come si chiamava? Non mi ricordo il nome. Mi pare. Guarda, sì. A questo qualche giorno lo uccido, cazzo. Così esce la mattina alle 7 per andare al lavoro. Con questo cacchio di moto a tutto volume. Sì, che c'ha la fonte di calore, come fece? Ehi, affermativo, no, non mi ricordo il cognome al baracchino, come si chiamava quello lì. Ascolta, io ne approfitto, casomai là, ci vediamo stasera, dopo le termini mi troverai da Laura. Perché mi ha chiamato questo amico, se potevo andare con lui, sono le 3 che dobbiamo andare a fare una commissione, siccome gli prestano la macchina, dobbiamo scendere a Freddaneda un attimino. Ti devo ciare, casomai ci vediamo stasera. Ciao Leoncino, ciao Calci, ci vediamo stasera allora. Prianto, non ci sono problemi. Fai pure, ci vediamo stasera avanti Giuseppe. Ciao Antonio, buon tutto, buona carica, buon tutto. Ci sentiamo alle prossime, se coincide. Cerca di entrare spesso in frequenza sul binario 10, che questo è il canale nostro, dove ci sono tutti quanti i vecchi CB, e ci fa piacere se trovai qualche, se entri a fare qualche chiacchiera con noi, ok? Di nuovo, ciao Antonio, ci sentiamo. E ok, ciao Leonci, io sabato notte o venerdì notte, non mi ricordo se era in frequenza, però il 27 era morta completamente, e infatti stavo andando in paranoia e allora mi sono dovuto spostare. Poi mi sembra che siamo sentiti con una persona, stavo chiacchierando con uno di Alghero e poi all'ultimo è arrivato Claudio, che c'aveva gente a casa sua a cena, e sono rimasto un bel po' ancora, e poi ho spento perché era già tardi e non ce la facevo più, anche perché io alla stazione devo prendere l'apparecchiatura, piazzarla, perché a casa non è che ho l'apparecchiatura disponibile lì, devo insomma rimontare tutto. Quando ho terminato di chiacchierare devo rismontare tutto e mettere tutto quanto a posto. Lo spazio a casa è limitato. Ok, buon proseguimento di QSO, casomai alle prossime Leonci. Ciao Claudio, ci vediamo stasera. Ci vediamo stasera, ciao, Lucia, buon pranzo, buon tutto. Ciao, che mi ha chiamato. Ciao, Claudio, capo 2. Stamattina ho contattato uno di questo francese, ma dico il mio figlio, che mi sono stato a Ci sentiamo tra 10 minuti e vado a dare una lavata. Vincenzo nel Leoncino. Guanti Antonio, Brode, buonasera. Ciao, buonasera, ero in radioascolto perché sono entrato prima, stavo facendo carica batterie. Perdona un attimino, faccio una chiamata a un amico che dovrebbe essere in ruota, in quel ritmo sempre. Attenzione, sberla se mi ascolti. Eccomi, ben sentito a tutti. Qua la stazione Sberla, operatore Edoardo. Fino l'hai copiato? Ah, già l'ho sentito, sì. Sberla, già lo sento abbastanza chiaro. Avanti Sberla per Antonio Brode. Grazie Gianni, se non sbaglio. Antonio Brode, io sono Giuseppe Leoncino, che ti super saluta con la buonasera. Grazie mille Leoncino, io sono neofita quindi dovete un po' scusarmi per il linguaggio e per il tempo, io cerco di rispettare un pochettino, ma se sbaglio siete clementi. Non c'è problema, ho che non ho copiato il tuo nome attivo. Chi sei? Sberla, operatore Edoardo. Sì, Edoardo. Da dove stai modulando, Edoardo? Scusa se te lo chiedo. Mi offendo. Rockefeller, quasi all'incrocio con Via l'Italia. Ah, ecco. Sei quasi attaccato a Antonio Brode. K positivo. Comunque ti lascio il mic per Antonio Brode. Avanti Antonio per Sberla. Attenzione, binario di Brecco. K Roger, registrato il Brecco e dovrebbe essere Gianni Doppio Room, rilancio il microfono Sberla e fai entrare Gianni Doppio Room, avanti. Avanti Doppio Room, ben sentito. Vite non mi conosci, io sono Sberla, operatore Edoardo. Oh Sberla, ben sentito, ti avevo già sentito qualche volta, dai, quando stavo a cominciare a distribuire gli apparecchi, coso, grotto, dai. Scusate, io non ho copiato niente, sento malissimo. E qua c'è un po' di QRM, cioè c'è QRM alto, non so se, ti ripeto, sta riguardando parte della città però a settori. A me lo stesso arrivi un po' più in su del QRM, io ti ascolto bene ma le condizioni dell'antenna sono completamente diverse, perché Sberla ha una boomerang che come sai è una semidirettiva, quindi è possibile che un attimino sia annullata la ricezione per la tua posizione. Dove sei? Sulla 131? Sono in città, in via Sucis, mi sto mettendo in via Sucis adesso, E c'è una... stai arrivando con un Santiago di 9,20, una radio di 5 che però è un deggiante, nel senso che a momenti proprio scendi quasi a 2, perché sale la propagazione in una maniera assurda. Comunque mi stavo dicendo che lui non ti copia bene, dai. E avanti Giuseppe. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Giuseppe, vabbè, tutto ok? Ok, tutto ok, risolta la questione, poi ti parlerò verticale, ok, capito. Io sarei voluto che c'era la macchina, già Umberto. Adesso vado, perché se no dice che non ce la fai, ma non la più lunga, smontata, dice che si è messo poco, ma a piacere un po' più lungo il lavoro. Sei già lì o stai partendo da casa? Sto andando, sono a Ponte Nuovo adesso, sto cominciando a salire, cioè sono alla rotonda ancora, di Ponte Nuovo. Sì, calma, vabbè, dai, ci sentiamo stasera, dai, con calma. Calma. No, Brode. Cappa, sei salito di segnale già, sei 9.20, adesso se la radio è molto più pulita di prima. E quindi non sa da fare questo matrimonio, o Sberlas? Negativo, qua il futuro sposo mi sembra un po' troppo sulle sue, bisogna salvare la sposa. Caparoggio, ma bisogna trovargli diversivo e allora? Esatto, qua se c'è qualcuno che conosce un'anima pia che si vuole molare per salvare un matrimonio, si faccia avanti. Se li organizza, se tu hai la donna te lo faccio organizzare tu quella lì, o mi ha nipote che c'è un'azienda che organizza matrimoni. Copiato Sberla. Attivo, sento assalti e quindi non sono riuscito a ricostruire il discorso, quindi dovete ogni volta farmi da eco. aspetta un attimino, perché evidentemente hai toccato lo squelce dell'apparato. Apri tutto lo squelce, perché cioè devi sentire il rumore di fondo, perché sennò è per quello che non lo senti. K fatto. Siamo sovramodulati. E allora mi ascolti adesso? Ma adesso sento meglio, dove sei? In via d'Italia, allora? Incrocio con via Rockefeller. Dico qualcuno, dove sei? Altrove, in via d'Italia. Cava Roggero. Ah, perché sennò ti senti, avrei fatto ballare lo Smith. Dove sei, su? Sto a casa di quella persona. Cava Roggero. Ripeti quello che stavi dicendo a Sberla, che è interessato, che dobbiamo salvare un matrimonio, o meglio, dobbiamo salvare una persona da un matrimonio. No, ma il tutto organizza ricevimento, tutta la parte della fioritura in chiesa, tutte queste cose qua, la ma non salva matrimoni. Allora, ho sentito un break, se non sbaglio. Avanti il break. Buongiorno, buongiorno. Questa. Però c'è un sacco di QRM, quindi ti saluto e passa, non mi trattengo perché sono te. Dappa Sandro, ben sentito, ben ascoltato, stai arrivando con un Santiago di 9, una radio di 4, perché è leggermente bassina. In ruota ci sono Giuseppe Leoncino, c'è Gianni Doppio Room, credo che Giuseppe sia al QTH fisso, Gianni è in barra mobile, e mentre invece dall'altra parte c'è Sberla, che non so se riesci a copiare, comunque ti mando un attimino avanti, dai, vai avanti Sberla per Sandro Conan da Alghero. Ben sentito Sandro, qua ti ripeto, sono a stazione Sberla, operatore Edoardo. Ti saluto, e vai, vieni avanti. Conan, non so se sei riuscito a tirarlo fuori. No, purtroppo ho avuto l'impressione di capire quando stava parlando, ma no, non niente. E, K è una stazione base, diciamo basic, nel senso che ha un'antenna, una boomerang, e un baracchino che gli dà esclusivamente 4 watt, tra virgolette, legali. Quindi ha un po' di problemi per quanto riguarda la trasmissione, lui riesce a copiarti forse, ma tu no. Tutto bene comunque, Sandro? Sì, diciamo tutto bene, tutto regolare. L'unica cosa, troppo QRM, quindi impossibilità di stare in questo contatto. Caparogger, me ne rendo conto, tanto è vero che un paio di giorni fa si era anche cambiato canale, però stranamente questo QRM perdura, persiste e arriva soprattutto dalla Russia, si sentono queste telefoniste, cose strane, boh, non si capisce bene. Ti chiedevo tutto bene per quanto riguarda il QRA familiare, sì? Sì, tutto regolare, in allerta, ci manca un mesetto. Caparogger, dai, sono contento così. Non lo so, se vuoi rimanere in radioascolto, comunque nel caso io ti ascolto e sono dispostissimo a farti da ponte. Allora rimango in ascolto, giusto per vedere quello che riesco a comprendere, faccio un po' di banco qua e tanto poi alle 16 devo uscire, quindi mi approfitto, sono entrato giusto per salutare, dai, non mi trattengo oltre in ruota. Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao mi sono fatto il nominativo della terza persona che mi ha detto, forse qualcun altro e niente, dai, ti ripasso il microfono, rimango in ascolto, tanto ho poco da fare. A più tardi o a stasera. Per oggi ben sentito, ben ascoltato, ci sentiamo sicuramente stasera se coincide. Vi saluta Sandro Conan d'Alghero, ha un po' di problemi di QRM come ce l'abbiamo tutti, ma lui deficita parecchio per una questione di distanza, dai. Saluta a tutti comunque. C'era, se non sbaglio, Gianni Capri 2 in ruota. Avanti Gianni se mi ascolti. Negativo. Gianni Doppio Room. Io sono qua, sono arrivato da Mela, ma è un casino, cioè attraverso il reattore si chiusa, dove piano sicuramente. Lo so, fra il coso, stanno facendo lavori di, se non sbaglio, di manto stradale. Cava gara, dai, già l'ho trovato il parcheggio, non c'è problema, l'ho trovato. Cappa Roger. Sberla, qua bisogna, ma non ti ha detto niente invece della gelataia? Negativo. Comunque questo è un segnale russo che arriva, si può sfruttare. Se riesce ad agganciare una di queste telefoniste. Negativo. cattivo, perché non si capisce che cosa siano, nel senso che sembrano quasi radiotaxi, nel senso che non fanno QSO al di fuori della nazione, a quanto ho capito. Ho capito, spiegami questa cosa della playa. Ascolta, questo pomeriggio quando è che riprendi i marmocchi? A meno di un'ora. Caparoglio, dai. E ce l'hai tutto il giorno? Eh beh, per forza, se no domani mattina, che mi accompagnerà a scuola. Ah, non mi ha detto dove hai sistemato poi la stazione. Non ho copiato, scusami. Non mi hai detto poi dove hai sistemato la stazione? La stazione, niente, sul nuovo scaffale in cucina, a fianco al forno a microonde, funzionano bene entrambi. E ok, non parlare col microonde. Devo stare attento col vantaggio. E comunque mi sa che quell'antenna che hai in più la piazzerò al posto di questa boomerang, perché molti non riesco a copiarli. Se lo vuoi non c'è problema, assolutamente. Assolutamente sì. L'unica cosa, aspetta, come si chiama? Ah, sì, ho anche un metodo per poterla piazzare senza nessun problema. Quando vuoi, guarda, è una questione di, esagerando, 20 minuti. Ce la portiamo intera, la che sarebbe la cosa migliore, perché sennò dobbiamo ripiazzargli tutto quanto il... dobbiamo risettarla, cioè riaccordarla e rimettergli il vulcanizzante e tutte cose. Invece così, se riusciamo a portarla intera, è che è 5 metri a qualcosa, quindi va calata dal palazzo intera e va portata a casa intera, tipo canale a pesca. Ho capito, qua bisogna quindi allertare Mercedes. Negativo, è abbastanza piccolina, non c'è bisogno. Al limite sai cosa facciamo? Gli facciamo un segno e la dividiamo a metà. No, ma se riusciamo la portiamo intera, dai, tanto cosa ce ne frega? Siamo vicini. Vediamo un attimino, dai. Nel caso ti do anche, no, quel palo lì però mi serve. Vediamo come fare, perché un po' bisogna alzarla, Kappa, ascolta, tornando all'altra questione del salvataggio dalla nostra amica dal matrimonio, cosa suggerisci? Di creare delle condizioni alternative al fine di poterla distogliere dal fattaccio, capito? Decidendo di molarti per la causa e di farti avanti tu? Purtroppo le condizioni non me lo consentono per tutta una serie di motivi. Alternative valide? Non ha nessuna. Allora la vedo grigia, qua il tempo stringe, l'organizzazione del matrimonio va avanti, quindi più tardiamo e più ci sono cose da dire dopo. Lo so, non so cosa dirti. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire, lo so, è un po'. Siamo un po' arrivati agli sgoccioli, mi sa che ci dovevamo svegliare prima. Non so. O la prendiamo a Patrucchi, ci facciamo un discorso e poi la va la spacca. E se no, pazienza, scoglia solo cuore carini. Oppure la prendiamo e basta. Per metterla? Vabbè, non so se è legale, però ci si può provare. Vi siete sovramodulati, avanti Gianni. Io ho fatto foto con la strada lì, anche se non si può entrare, ho fatto tutto il suo controsesso e sono entrato, ho fatto un po' di rubetto, controsesso e sono entrato la via Roma, dalla parte di via Roma. Gava, ma come mai è aperta quest'ora, fa un orario continuato? Allora, ho entrato, ma siccome mi ha detto che qua c'è sempre il problema del partito che c'è stata chiusa, allora sono venuto un po' prima. Cappa di Roggero. Giuseppe, avanti. Dimmi tutto, Antonio Grotte, dimmi tutto. Cosa c'è? Aria di matrimonio? Ma non per me, per una nostra amica. Santi, se ti vuoi molare, guarda che è una bella ragazza, nel senso, se ti vuoi mettere nella condizione di conoscerla, almeno la salvi dal matrimonio. A me non ce n'è problema, io sono scappato, lo sai che sono divorziato e mi piacerebbe conoscerla, frequentarla e non c'è nessun problema. L'abbiamo trovato. Però devi dire anche tutto, cioè devi dire che vorrebbe anche un piccolo marmocchio. Piccolo marmocchio, diciamo... con il tempo, quando le persone si conoscono, si frequentano, stanno un po' di anni assieme e verrà con calma, capito? Quanto voglio aspettare, perché qua il tempo stringe e poi rischia di rimanere senza. Hai capito Giuseppe, questa qua è in data di scadenza. Quanti anni ha tu questa ragazza, quanti anni ha? È 33, però 33 tu vuoi aspettare un paio d'anni, sono 35, poi mettici un altro anno per la cosa, sono 36, stringe il tempo e qua non si sbucciano fave, hai capito? Per carità. Comunque, guarda, riguardo alla questione di conoscerla non ci sono problemi, si può anche conoscere e non oltre al resto, sai, le cose vengono, non è che subito si conosce, certo, e si deve fare quello che si deve fare, non sembra neanche giusto, no? In che senso, aspetta, si deve fare quello che si deve fare? Lei a fare vuole fare, ma fare vuole fare, capito? Ma sai che avere un marmucchio crea avere tante preoccupazioni e tutto quanto. Non è così facile, Antonio. Non è così tanto facile, perché bisogna, prima di tutto, bisogna avere la materia prima. Seconda cosa, bisogna avere una cosa che ti possa permettere di poterla mantenere. E terza cosa, vuole cresciuto, Dio comanda, capito? Allora, guarda, materia prima, bigger e mincra, come si dice a Cagliari. Dal punto di vista economico è un ottimo partito perché è ben sistemata. Poi per farlo crescere bisogna sicuramente mettersi un minimo di impegno. Però le prime due condizioni ci sono, almeno credo, perché la materia prima ce la devi mettere tu. Il sostentamento lo mette lei, crescere si cresce in due. Scappa, beh, giustamente, se è così non ci sono problemi, hai capito, no? Per me non ce n'è problema, tanto, e il discorso è quello là, bisogna, te l'ho detto, bisogna avere tempo, dare tempo al tempo, hai capito? Prima si conosce, si frequenta e poi domani, se lei voglia presto di fare queste cose qua, non c'è problema, non ce n'è. Allora, bisogna organizzare allora una cena e presentargliela. Certo, però sento un po' di freno a mano tirato, qua bisogna andare all'attacco, ci vuole un po' di spirito guerriero, anche perché qua bisogna scartarne un altro, che è un po' ingombrante, un po' geloso, cioè c'è da c'è a fare. Ma sai che cos'è? Che il leoncino, un po' come te, ha avuto l'esperienza del coso, della fede, quindi di conseguenza è normale che sia un attimino a freno a mano tirato di fronte a una richiesta di cosa impellente. Dico bene, Giuseppe? Le parole giuste, hai detto proprio le parole giuste, perché io sono già passato e ricaderci è un'altra cosa. Non è che sia così facile, non è, caro Antonio, lo sai che il matrimonio porta tante spese e tutto quanto. Poi, cosa ti voglio dire, non altro, io per conoscerla non ci sono problemi, per me problemi di conoscerla non ce ne sono, posso anche conoscere anche stasera, ci presentiamo. Se lei li va di uscire, usciamo, no, non me ne metto problemi, comunque viviamo e poi un domani, se lei è d'accordo, potremo avviare già al coso delle nozze, capito? A parlare, adesso sei bello lanciato, così mi piace, stasera, cioè già da stasera vuoi conoscerla e convivere addirittura. sto scherzando chiaramente. No, guarda che dal punto di vista economico lei è un bene messa bene, cioè non sto scherzando. È un'amica che secondo me ha trovato un ragazzo non adatto alla sua persona, mettiamola così. E quindi la dobbiamo convincere a mollarlo, siccome anche lei è sul come si può dire, è possibilista in merito a questa cosa, quindi gli va data un attimino una spinta per evitare di. Ragazzo di dove? Lo conoscete voi? Ahimè sì, comunque ti passo Sberla che ti sa descrivere meglio la situazione, avanti Sberla. Eccomi, allora Leonci, lui è un po' caratteriale, pensa molto a se stesso, si dedica poco a lei. E lei la vediamo che un po' sta accusando il colpo, cioè all'inizio sai c'è tutto il trasporto, l'emozione, però pian piano sta venendo fuori il carattere di lui e lei ci sta un po' ripensando. Però è partita già con i preparativi di questo matrimonio e non so, non è molto convinta sul da farsi e quindi niente, ci voleva questa spinta esterna per farle capire insomma che il mare è pieno di pesci e possibilmente anche migliore di quello che ha adesso in mano. Scusate dopo il senso, però è così. Sì, vabbè, ma il discorso è questo, vabbè. Ma andiamo a vedere se lei è veramente ci tiene a lui, è veramente innamorata, sta bene, oppure lo sta facendo solo per uno scopo solo, hai capito? Mi dovete capire, Rosberla o Antonio, mi dovete capire già al volo al discorso che vi voglio fare io, hai capito? Vai Antonio. Ma no, io ti sto dicendo che lei, allora ti spiego, lei sicuramente non è innamorata di questa persona, comunque ha i suoi sani dubbi. Dal punto di vista, certo non se lo sto sposando per una questione economica, perché lei è già sistemata, nel senso è molto ben avviata come professionista e quindi non ha problemi di sorta. Sicuramente sta cercando una persona da questo punto di vista per fare una famiglia e per avere un figlio. Quindi diciamo che non è a convenienza la cosa, ma diciamo che un minimo di tornaconto lo vuole avere. Sì, d'accordo con te, Antonio, te lo dico e ribadisco, per fare queste cose qua bisogna due persone che si devono conoscere, poi quando si sono conosciute faranno quello che faranno. Chi è che? Arriverà anche il bebè, tranquillo. Mi è sembrato di sentire un bip in sottofondo, avanti. State distruggendo un matrimonio? No, negativo, vogliamo distruggere un matrimonio. Cosa? Ancora non si sono sposati già, nel senso che, ti ripeto, è che noi parteggiamo per la parte femminile e quindi di conseguenza diciamo che la parte maschile non è all'altezza della situazione, quindi secondo noi dovrebbe un attimino cambiare partito, capito? Ma in base a che cosa lo dite voi? Si scherza. In base a cosa lo dite che non è all'altezza? Perché non so se sarà vero, perché non sarà merita come bellezza, poi in base a che cosa? No, caratterialmente sono molto simili, a livello, no scusami, non caratterialmente, il lavoro è lo stesso, però che si sono conosciuti in ambito di lavoro, sono avviati entrambe due, se vogliamo a livello di bellezza è la stessa persona, però caratterialmente sono completamente diversi. Lei è una ragazza un attimino più estrosa, più alla mano, più simpatica, più tutto, lui è un attimino più figlio di papà, più tutto quanto contenuto, più non lo so, non adatto diciamo alla persona, non adatto alla frequentazione di amicizia in generale, perché è proprio così, un po' abbottonato come suol dire. Sì, vabbè, si compensa, la coppia c'è sempre la legge della compensazione, magari anche grosso, uno simpatico, l'altro magari meno simpatico, ma c'è la legge della compensazione sempre, Però a compensare caratterialmente il deficit di lui, credimi, ce ne vuole, perché è proprio la classica persona che va un po' sopportata, capito? Avec les mousons, avec les pagons de jour, voilà, capito. Con la forzetta sotto il naso, come si suol dire? No, di quelli GG più che altro. Cattaglia. Sono sotto il fare, a me non vedo il numero, porca miseria. Non vedo il numero, nemmeno se mi ammazzo. Non ho portato gli occhiali e niente da fare. Aspetta, te lo cerco io col telefonino su internet.